Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Con le ultime nomine dei presidenti delle autorità di sistema, continua a delinearsi l'assetto del nuovo ordinamento portuale italiano. Istituire una nuova governance è infatti il primo passo per procedere all'attuazione della riforma entrata in vigore lo scorso settembre. Ma non sono pochi i tasselli da inserire e i decreti attuativi da approvare per la sua completa realizzazione. All'interno dei porti, intanto, si stanno definendo i primi organismi di partenariato della risorsa mare. Un organismo che avrà funzioni consultive e che riunisce rappresentanti degli armatori, degli industriali e degli operatori commerciali, turistici e logistici. Fra questi, anche i rappresentanti del mondo dell'autotrasporto, da poco designati dall'albo. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, oggi ci occuperemo in particolare di porti, di autotrasporto, di dialogo fra modalità. Questo perché da un lato si va completando il puzzle delle nomine all'interno dei sistemi, delle autorità di sistema in cui è stata divisa l'Italia, che sostituisce le vecchie autorità portuali, dall'altro si cominciano a riempire anche le caselle che riguardano le rappresentanze dell'autotrasporto all'interno di queste autorità di sistema, all'interno degli organismi di rappresentanza delle autorità di sistema. Ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità di sistema dell'Adriatico Orientale. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie a voi. E vi presento anche un ospite che, come dire, conoscete molto bene, che è Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti. Buon pomeriggio anche a lei, Genedani. E buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Allora, cominciamo proprio con lei, Genedani, visto che proprio pochissimi giorni fa le è stato nominato rappresentante dell'autotrasporto, ovviamente di tutta la categoria dell'autotrasporto, non parliamo di singole associazioni, all'interno del porto di Genova, che è uno dei porti sicuramente più importanti, sicuramente il più importante del Tirreno. Tra l'altro si tratta di un incarico in continuità con il precedente incarico di rappresentante con l'autorità portuale. Cosa cambierà all'interno dei porti per il mondo dell'autotrasporto con questo sistema? Ma a mio avviso, innanzitutto, ho accettato la carica con piacere. Con la riforma del Rio ci sarà il comitato di gestione e un tavolo di partenariato. Il comitato di gestione che sarà quello che, diciamo, un comitato molto ristretto che deciderà. Però per mantenere il rapporto, il dialogo con i soggetti economici si è previsto degli altri attori che sono, diciamo, gli attori economici, e quindi non vedo per ultimo l'autotrasporto che debba essere un attore principale all'interno delle portualità. La riforma, a mio avviso, dovrebbe portare dei risultati, perché si mette a sistema vari porti, si dovrebbe cominciare a ragionare come famiglia, non come singolo. Certo, beh, questa è un'immagine sicuramente molto interessante. Zeno D'Agostino, ragionare come famiglia è un po' il ragionamento alla base dell'intermodalità, quindi di far viaggiare le merci utilizzando varie modalità di trasporto, e in questo sicuramente mare e gomma devono dialogare. Ma parliamo del porto di Trieste, porto che si sta rendendo protagonista di tutta una serie di iniziative nazionali e internazionali. Cito solo ad esempio l'ultima, un treno che unisce il mare Adriatico e il mar Baltico. Di che cosa si tratta? Si tratta, che diciamo, dell'apice di quella che è una politica di sviluppo dell'intermodalità e della ferrovia in generale in porto Trieste, che ci ha visto quest'anno avere il record nazionale nel numero di treni, 7.600 treni. Siamo diventati il primo porto italiano per treni, una crescita del 27% sull'anno scorso, 68% sull'anno precedente, appunto sul traffico ferroviario, che consta fondamentalmente di sviluppo di servizi intermodali che sono internazionali, che vanno dal Lussemburgo fino a Budapest, ecco, dall'estremo ovest, diciamo, per quel che riguarda Trieste, che è appunto il Lussemburgo, piuttosto che l'estremo est, che è Budapest. Questo treno, torno a dire, è l'apice, perché mette insieme per la prima volta due porti della sponda sud e della sponda nord europea, e finalmente fa capire che se si vuole si può riuscire a diventare quella famosa piattaforma logistica nel Mediterraneo che distribuisce merci sul continente europeo, riuscire a portare i semirimorchi turchi, come faremo noi con questo nuovo treno, fino a Kiel, per poi mettere questi semirimorchi sulle navi Ro-Ro che vanno sia in Norvegia che in Svezia, piuttosto che in futuro a San Pietroburgo, significa non solo che siamo riusciti a competere con i nostri concorrenti della sponda nord dell'Europa, ma addirittura ad andare a distribuire merci oltre il bacino, certo, di mercato e di loro riferimento. Quindi penso un grande successo non solo per noi, ma proprio per la logistica, per il sistema logistico nazionale, e ne ha tanto bisogno. Genedani, D'Agostino ha appena citato, come dire, il terzo componente di questa grande famiglia, la ferrovia, il treno, questo dialogo fra modalità che si deve spingere sempre più avanti, e noi dovremmo avere due strumenti che dovrebbero consentire ciò, che sono il ferro bonus e il mare bonus. Ma a che punto è il dibattito su questi strumenti? Ma questi strumenti, da quello che ultimamente abbiamo potuto sapere, a giugno dovrebbero essere rese fruibili le risorse sia per il ferro bonus che per il mare bonus. Logicamente noi siamo gente che vogliamo dialogare e logicamente fare sistema con queste altre modalità, sia nave che ferro, però bisogna avere un maggior dialogo rispetto a quello che c'è attualmente. Sembra che qualcosa si stia muovendo, comunque il futuro io penso che sia il combinato, sia la ferrovia che porterà via, diciamo, una parte importante di container, come diceva il presidente dell'autorità portuale di Trieste. Se si vuole, i risultati si portano a casa, e penso che ce ne sia per la gomma, per il ferro e per il mare. Quindi se si fa sistema, come dicevo prima, se si fa squadra, si fa una famiglia, le tre modalità per me possono lavorare tutte e tre, soprattutto vincere quella sfida che citava prima anche il presidente con i porti del nord Europa. Genova io penso che sia un altro porto importantissimo, anzi forse il numero uno d'Italia, non voglio sottovalutare nessuno, però la locazione in cui si trova e soprattutto si mira alla Genova Reno, e automaticamente noi dovremmo riuscire a competere anche in questo modo, cioè quindi non più fare il giro dall'Africa alle navi, in poche parole, ma farle entrare nel Mediterraneo con Suez, scaricarle su Trieste, scaricarle su Genova e portare noi al nord Europa le merci, quindi portare a casa il valore aggiunto della movimentazione di queste merci. Certo, insomma ci sono tutti i presupposti affinché l'Italia torni a giocare un ruolo importante come piattaforma logistica del Mediterraneo e dell'Europa intera. D'Agostino, in questo gioco, chiamiamolo così, Trieste ha un ruolo importante perché è un po' una cerniera fra est e ovest, e in questo senso vanno anche alcuni investimenti come ad esempio i collegamenti e gli accordi di cooperazione con lo scalo iraniano di Bandar Abbas. Sì. L'Iran secondo me è una componente importante di questi ragionamenti. Allora diciamo che, per riassumere, se è pur vero che esiste un rapporto con il Far East e con la Via della Seta, che è un po' il tema che anche nei dibattiti oggi viene affrontato molto spesso, non va sottovalutato invece tutto ciò che si muove a livello di inframediterraneo, che tra l'altro è stato un traffico molto molto dinamico e molto attivo nel 2016. Per cui, ecco, l'Iran significa fondamentalmente che questo mercato che si è aperto di 60 milioni di persone, che si apre a quelli che sono i prodotti europei, italiani, visto che c'è qualcuno che oggi non vuole più i prodotti italiani e quindi dobbiamo cercare anche nuovi mercati. Dei nuovi mercati molto lontani da quelli, insomma. Ecco, l'Iran dal punto di vista logistico si raggiunge attraverso la Turchia, e chiaramente Turchia ed Europa dialogano attraverso il porto di Trieste. Quindi da questo punto di vista i rapporti che abbiamo intrattenuto con l'Iran, che si sono consolidati con alcune, appunto, firme di protocolli con alcuni soggetti istituzionali iraniani, servono per creare quella, diciamo, scatola istituzionale in cui possono operare tutti i soggetti privati, che sono sia italiani ma anche e soprattutto turchi, che oggi stanno costruendo un corridoio tra Iran, Italia, Europa e Trieste, ma che poi prosegue appunto certo, sul continente europeo, addirittura arrivando in Scandinavia. Ecco, questo è un corridoio che per noi è importantissimo, non è un corridoio riconosciuto, no, è meno conosciuto di quelli, diciamo, intercontinentali che riguardano la Via della Seta, ma secondo me è di primaria importanza. Io non sottovaluterei in generale il tema mediterraneo. Il Mediterraneo oggi viaggia, diciamo, a velocità ridotta per le questioni geopolitiche che tutti conosciamo. Però io ritengo che in futuro alcune questioni si risolveranno e quindi l'Italia avrà un ruolo anche su questi traffici, non solo su quelli intercontinentali. Bene, termino qui anche questa puntata di Container. Noi salutiamo e ringraziamo i nostri due ospiti, il presidente di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani, il presidente dell'autorità di sistema dell'Adriatico Orientale, del porto di Trieste, quindi Zeno D'Agostino. L'appuntamento con Container ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autori.